Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. A circa 1280 km a ovest dalla costa messicana e da Acapulco si trova uno dei tanti atolli che punteggiano l'immenso oceano Pacifico. Qui si svolge la nostra storia. È un'isoletta circolare, bassa, sabbiosa, con un picco di una trentina di metri, poverissima di vegetazione, senza acqua dolce, che racchiude una laguna marcescente che probabilmente è un antico cratere vulcanico. È brulica di enormi granchi aggressivi, devastata da cicloni, completamente ricoperta dal guano, che sono gli escrementi degli uccelli marini. Insomma, uno dei posti più inospitali del mondo. I primi esploratori che la scoprono sono francesi. La battezzano Isola della Passione perché viene scoperta il Venerdì Santo. Poi il naturalista britannico John Clipperton nel 1704 le dà il proprio nome dopo esserci sbarcato, narra la leggenda, dopo aver sepolto un tesoro. Perché vi sto parlando di quest'isola così insignificante? Perché nonostante la sua inutilità, Clipperton si è trovata al centro di una controversia politica di portata mondiale, però è stata anche teatro di una delle pagine più tristi, atroci della storia dei mari, una storia che si sviluppa ai primi anni del Novecento. È la tragedia di Alicia Rovira Arnaud e dei suoi compagni di sventura che sono passati alla storia come i dimenticati di Clipperton. Noi non vogliamo che Alicia e i suoi compagni vengano dimenticati ancora, quindi le dedichiamo una puntata. Dedichiamo una puntata a una donna che è stata una donna di estremo coraggio, nonostante la sua giovanissima età, ha saputo tener testa a una situazione che avrebbe fatto arrendere, impazzire chiunque. Ma per capire bene la vicenda di Alicia dobbiamo tornare indietro per un momento. 1858, i francesi prendono possesso dell'isola. Ascoltiamo Miguel González Avelar, autore del libro Clipperton, Isola Messicana. Risulta che un teniente della Marina francese Risulta che un tenente della Marina francese si imbarcò su un mercantile, non un'imbarcazione da guerra francese, ma un mercantile. E quando arrivarono a Clipperton, prese un foglio di carta e scrisse che prendeva possesso dell'isola, come era stato fatto per la scoperta dell'America. Non scese sull'isola, non ci riuscirono per le forti mareggiate. Poi lui mandò questo atto alle Hawaii, che allora era un regno, il regno delle Hawaii, per la ratifica. Nessuno ebbe notizia di questo supposto documento di possesso, né la Francia né nessun altro. L'opinione pubblica francese non ne ha mai sentito parlare. Toma di possessione, ni Francia, ni... bueno, l'opinione pubblica francese jamás se enteró de eso. Insomma, Clipperton è un'isola contesa, sentite, lo scrittore Miguel González Avelar la chiama Clipperton Isola Messicana, però non la vogliono solo i messicani che ne avrebbero diritto per territorio, la vogliono anche i francesi che ne rivendicano la scoperta e poi saranno molte le nazioni coinvolte in questa disputa. Perché? Perché ci sono così tanti paesi che vogliono questa isola sperduta nell'oceano dove è impossibile addirittura vivere? La risposta è in una parola che non evoca niente né di bello né di profumato: il guano. Allora, il guano è costituito dagli escrementi degli uccelli marini, soprattutto gli albatros, i cormorani. Il guano è un potentissimo concime naturale, è composto da ossalato e urato di ammonio, fosfati, sali minerali, concentrazione di nitrati, insomma è utilizzato in molti settori dell'agricoltura. Pare che perfino Camillo Benso Conte di Cavour abbia importato il guano in Italia per primo, in Piemonte, per utilizzarlo con grande successo nel Vercellese. Verso la metà dell'Ottocento lo sfruttamento economico del guano genera un'enorme ricchezza perché c'è un regime di monopolio assoluto nel mercato mondiale dei fertilizzanti. Molti uomini d'affari accumulano enormi patrimoni con la sua estrazione, con la sua commercializzazione. Adesso comincia a essere chiaro perché l'isoletta di Clipperton, intatta, inesplorata, è ricoperta di guano, totalmente inospitale, attrae l'interesse dei francesi ma anche dei messicani e poi degli inglesi e degli americani. E vedremo come questo andrà a intersecarsi con l'esistenza terribile della giovanissima Alicia Rovira Arnaud, destinata a conoscere molto da vicino le sponde inospitali della terribile isola di Clipperton. Il falco e il gabbiano. I francesi hanno preso possesso di Clipperton semplicemente circumnavigandola e scrivendo su un pezzo di carta che da quel momento l'isola è di loro proprietà. La cosa ovviamente non piace ai messicani e nel 1897 il Messico rivendicherà i territori, ma soprattutto il suo guano, la sua preziosa risorsa. La storia è più complessa perché i francesi hanno assegnato la concessione di sfruttamento del guano di Clipperton a una società statunitense, gli inglesi hanno messo gli occhi sul guano dell'isoletta, quindi dicono ai messicani: riprendetevi l'isola che noi vi compriamo tutto il guano a un prezzo più alto della concorrenza. Insomma, Clipperton, pur essendo un luogo infausto, inospitale, è ambito da parecchie nazioni. Il presidente dittatore messicano Porfirio Diaz pensa di tagliare la testa al toro inviando una sua guarnigione a prendere possesso dell'isola. Per comandare la delicata spedizione, il presidente sceglie un suo giovane ufficiale, Ramon Arnaud, che Diaz giudica l'uomo giusto perché si è distinto nella rivolta dello Yucatan, ha compiuto una delicata missione segreta in Giappone. E Arnaud è un ragazzo, però, insomma, un uomo molto giovane, ha 29 anni, non è felice all'idea di seppellirsi su un'isola deserta, sperduta nel mezzo dell'Oceano Pacifico. Poi gli viene detto che si tratta di una missione di interesse internazionale, che lui sarà governatore dell'isola, che avrà al suo seguito soldati con le loro famiglie, e quindi la sua idea cambia, anche perché lui è fidanzato e grazie a quel nuovo incarico così prestigioso può sposarsi e partire con sua moglie. In pratica lo hanno messo in mezzo. La sua futura moglie è la nostra protagonista, Alicia Rovira. Lei ha solo 16 anni, di lei sappiamo ben poco, è di un'ottima famiglia di Acapulco, il padre la adora. Il capitano Ramon Arnaud e la sua giovanissima sposa si sposano a Acapulco il 24 luglio del 1906 e poi salpano immediatamente per Clipperton. 3 giorni di mare e poi la nave militare che arriva in vista dell'isola. A bordo ci sono un centinaio di persone, 13 soldati, le famiglie, una 60 di operai italiani addetti all'estrazione del prezioso guano e naturalmente il capitano Ramon Arnaud, promosso governatore, e la moglie Alicia. Quello che la donna si trova davanti non è per niente incoraggiante. Clipperton era un anello sabbioso circondato dalla barriera corallina. Aveva una circonferenza di 12 chilometri e al suo interno si trovava un lago di acque solforose, paradiso di insetti e specialmente di zanzare. Il paesaggio era piatto e uniforme. C'era solo una roccia alta una 30 di metri e un piccolo gruppetto di palme. La spiaggia era letteralmente invasa dai granchi che presto scoprimmo essere molto aggressivi. E tutto, ma proprio tutto, era ricoperto dal guano, viscido e puzzolente. Beh, insomma, scusate l'ardire, ma stiamo parlando veramente di un'isola di merda. E la povera Alicia, che è una bambina a 16 anni, è in quell'inferno naturale. Però lei è innamoratissima di Ramone, l'incarico del marito è questo. Lei è determinata a essere una brava moglie, la consorte del governatore di Clipperton. Anche se a Clipperton non c'è niente, l'esercito si dà da fare e vengono costruite delle abitazioni, delle capanne. Sulla sommità dello sperone roccioso si dà via alla costruzione di un faro per volere del presidente, un faro illuminato da un'enorme lampada a olio che è stata trasportata con la nave. A guardia di questo faro arriva un personaggio che si rivelerà veramente spregevole, Victoriano Alvarez, ricordatevelo. Viene detto il negro, è un uomo rude, scontroso, che per il momento se ne sta rintanato nel suo faro. Il capitano Arnaud costruisce un vero e proprio villaggio, fa del suo meglio, ogni soldato ha la sua casetta dove vive con la famiglia, e i militari realizzano una specie di spaccio dove vengono raccolti gli approvvigionamenti che le navi trasportano all'isola quando vengono a ritirare il guano raccolto dagli operai ogni 15 giorni. La vita non è facile, si combatte contro una natura ostile, insetti a sciami, granchi affamati che peraltro non sono neanche commestibili, cicloni che devastano l'isola, che a volte rendono vana l'opera umana, cioè si deve ricominciare da capo a costruire. Insomma, a Clipper si lavora sempre per costruire o per ricostruire qualcosa. Le famiglie dei soldati crescono, anche Alicia rimane incinta, avrà 4 figli, tutti nati lì in quell'atollo desolato e puzzolente nel mezzo del nulla. Però dalle altre parti del mondo la storia continua a fare il suo corso. Nel 1910 il Messico comincia a dover fronteggiare una delle pagine più dure della propria storia. La rivoluzione, che si protrarrà per anni, porterà a destituire Porfirio Diaz, per capirci la rivoluzione di Pancho Villa, e i messicani a quel punto si disinteressano di Clipperton, salvo poi istituire un arbitrato internazionale per la definitiva assegnazione legale dell'isola, che i francesi, lo sapete, continuano a reclamare. Peraltro l'arbitro è il nostro re Vittorio Emanuele III, però nessuno si sta più interessando di Clipperton, del suo guano e dei suoi abitanti. Sono presi tutti da questioni più importanti e stiamo per sfociare nella Prima Guerra Mondiale. E poi il guano non è più una fonte di ricchezze come prima. Insomma, gli operai vengono ritirati e a un certo punto a Clipperton non ci pensa più nessuno, tranne il capitano Arnaud, che continua a essere l'integerrimo governatore. Ho una guarnigione di 13 uomini, donne, bambini, oltre alla responsabilità del faro e del suo guardiano. Fin quando non arriveranno ordini contrari, il nostro mandato è quello di presidiare l'isola e tutte le attrezzature militari che vi trovano posto. E così, quando il 26 giugno del 1914 la nave Cleveland torna a Clipperton per riprendere gli ultimi operai ancora presenti sull'isola, nonostante gli appelli perché il capitano, gli uomini e le donne rientrino a Acapulco, Arnaud rimane ferreo sulle sue posizioni. È un caso, come dire, direi anche di ottusità, che Arnaud pagherà molto caro. La Cleveland salpa senza di loro, sarà l'ultima nave che transiterà in prossimità di Clipperton nei successivi 3 anni. Quindi, da quando l'insediamento si è stabilito sull'atollo nel 1906, 8 anni prima, la piccola comunità aveva sempre fatto affidamento sulle provviste arrivate con le navi, perché l'isola è inospitale, non c'è nulla da mangiare, i granchi, l'abbiamo detto più volte, non sono commestibili, è impossibile pescare a causa di un mare sempre agitato, infestato da squali, non c'è acqua dolce, non c'è vegetazione, tranne delle poche palme striminzite che danno un paio di cocchi alla settimana. Quindi, a parte qualche uovo d'uccello rubato ai nidi, Clipperton è quanto di meno accogliente possa esistere sulla faccia della terra. E è una situazione drammatica che avrà sviluppi ancora più tragici. Il falco e il gabbiano. Clipperton, l'isola della passione, uno sperduto atollo dell'Oceano Pacifico a 1280 km a ovest del Messico. Ci vogliono 3 giorni di navigazione per raggiungerla, e quando si arriva si trova solo una inospitale striscia di terra sabbiosa che brulica di granchi aggressivi, devastata da cicloni, poverissima di vegetazione, ricoperta di guano, cioè gli escrementi degli uccelli marini. Eppure questo luogo, dimenticato da Dio e dagli uomini, è stato al centro di una lunga contesa durata anni proprio per lo sfruttamento del guano, preziosissimo fertilizzante, ma è stato soprattutto teatro di una delle pagine più tragiche della storia dei mari. Un manipolo di soldati messicani, accompagnati dalle loro donne e dai bambini, vengono inviati a presidiare l'isola, e con lo scoppio della rivoluzione tutti si scordano di loro, che passano alla storia come i dimenticati di Clipperton. questo irriducibile manipolo di soldati con donne e bambini che sono nati lì sono in attesa di ordini dalla madre patria che non arriveranno mai. Sono in quell'atollo sperando di vedere apparire all'orizzonte qualche nave carica di viveri, di generi di prima necessità. Nessuno si ricorda di loro, nessuna nave verrà inviata in loro soccorso. Alicia Rovira Arnaud, moglie del capitano Ramon, a capo del presidio, dimostra una forza, una determinazione uniche nonostante la giovane età, cerca di razionare i pochi viveri che ci sono, organizza battute di pesca che quasi sempre sono fallimentari per il mare burrascoso e per la presenza degli squali, poi va coi bambini in cerca dei nidi degli uccelli marini nella speranza di racimolare delle uova. E poi controlla il grado di maturazione dei cocchi delle poche palme presenti sull'isola, però sono veramente pochi, non più di 2 o 3 alla settimana, una razione ridicola per la comunità che non ha altra fonte di vitamine. Dopo 6 mesi dalla partenza dell'ultima nave, che era partita nel giugno del 14, iniziano le prime morti per scorbuto. Sono soprattutto gli uomini adulti a soffrire per la mancanza di vitamine. In tanti si sono ammalati di scorbuto e in tanti sono già morti. I soldati li hanno sepolti dal lato opposto dell'accampamento, molto in profondità, perché quei dannati granchi non li trovino e facciano scempio dei loro miseri corpi. Abbiamo tutti fame, siamo deboli, e anche Ramon inizia a perdere la speranza che qualcuno ci venga a salvare. I naufraghi non sanno quello che sta accadendo nel mondo, non sanno che è iniziata la guerra mondiale, sperano sempre che qualche nave transiti in prossimità di Clipperton e nel settembre del 1915, dopo 15 mesi dalla partenza della Cleveland, quando la situazione ormai è disperata, sia sotto il profilo delle condizioni fisiche sia per quello che riguarda il morale, il capitano Arnaud, che sta scrutando l'orizzonte senza sosta e probabilmente che si è pentito di non essere salito su quella nave 15 mesi prima, crede di vedere la sagoma di un'altra nave che si sta stagliando in lontananza, e lui è eccitato, raduna i soldati, fa preparare la barca a remi, una scialuppa, dopodiché tutti gli uomini eccetto il guardiano del faro si mettono in mare per cercare di raggiungere la nave. Il loro gesto è più che comprensibile, dettato dalla disperazione, ma la disperazione a volte non ti porta a analizzare attentamente i rischi. Il rischio è troppo alto, specialmente quando il mare è in burrasca, e lì il mare è sempre in burrasca, poi ci sono i venti e soprattutto la nave è troppo lontana, forse addirittura è solo un miraggio. Fatto sta che il guscio di noce con il capitano e i suoi soldati sballottato dai cavalloni alla fine si inabissa, la barca si capovolge, le donne e i bambini assistono impotenti alla morte dei loro cari, travolti dai flutti gelidi, divorati dagli squali che infestano le acque. Quasi contemporaneamente arriva un ciclone, i naufraghi sono costretti a rifugiarsi sotto al faro. Appena passata la burrasca guardano le loro povere casupole e vedono che tutti i loro pochi beni sono stati spazzati via dalla furia del mare. E non c'è fine al peggio per i dimenticati di Clipperton, perché adesso gli uomini sono morti tutti, sono rimaste 4 donne e 7 bambini. E arriva il guardiano del faro, Victoriano Alvarez, quello che i soldati avevano soprannominato El Negro. È un uomo rude, violento, solitario, anche lui sofferente per la fame, per le privazioni, la sua mente è minata dalla follia di quella vita di stenti. La morte dei soldati del capitano getta una nuova luce sulla sua sciagurata esistenza a Clipperton. E improvvisamente lui è l'unico uomo superstite, ci sono solo donne e bambini, l'unico uomo che è anche armato, perché adesso l'unico fucile sull'isola ce l'ha lui. Tutto quello che non era nel faro è stato spazzato via dal ciclone. Vittoriano Alvarez il Negro matura la sua rivincita, si autoproclama re dell'isola di Clipperton e esige di essere servito e riverito, ma non solo. Dopo anni di solitudine, quattro donne giovani e piacenti non sono male. Ascoltate ancora Alicia. Eravamo in quattro. La più piccola era Rosalia Nava, che aveva 13 anni. Poi c'erano Alta Gracia Quiros e Tirsa Randon, che avevano 20 anni. La più vecchia ero io, ne avevo 25. Rosalia era proprio una bambina. Poi era gracile, delicata. Alta Gracia era molto bella, mentre Tirsa era la più forte. Si presenta all'accampamento che hanno sommariamente ricostruito le donne e le informa che il capo è lui, è il re di Clipperton. Ordina che gli venga portato del cibo tutti i giorni, che le donne si diano da fare per tenergli pulito il faro e la sua abitazione. E poi sceglie quella che gli piace di più, Alta Gracia, sotto la minaccia del fucile la trascina con sé al faro. Sembra incredibile da raccontare, però la vita di questa misera colonia di disperati va avanti così per quasi due anni sotto il regno del terrore di Alvarez il Negro. L'uomo dopo qualche mese si stufa di Alta Gracia e tanto lì c'è solo lui, passa alla piccola Rosalia nonostante la disperazione delle altre donne, poi si stanca di lei, si prende Tirsa, va avanti per un po' questo carosello tra le tre donne. Lui non ha il coraggio ancora di prendere Alicia perché è la vedova del capitano, perché è una donna socialmente più elevata delle altre, di buona famiglia, in qualche maniera non la metabolizza, la teme. Lei non può accettare il comportamento bestiale del guardiano del faro, le sue violenze, però non sa come fare. Non è semplice, donne che hanno la responsabilità di sette bambini, non è semplice ribellarsi a un uomo grande, grosso, armato, però un piano ce l'ha per cercare di neutralizzarlo. Parla di tramortirlo, di legarlo, di farlo prigioniero, però lei ha capito che l'unico modo per fermare Vittoriano Alvarez è uccidere. Se lo sono detta molte volte, arriviamo al 18 luglio del 17. Sono quasi due anni che il capitano Arnaud e gli altri uomini sono morti in mare. Tre anni che nessuna nave appare all'orizzonte di Clipperton. Sono due anni che le donne e i bambini vivono nel terrore di Vittoriano Alvarez. E quella mattina l'uomo arriva all'accampamento con Tirsa, che in quei giorni era la sua prescelta. Si è stufato, dice, questa volta vuole lei, vuole Alicia, quella che non ha mai avuto. Le dice di obbedire, che l'aspetta al faro, altrimenti sparerà a lei e ai suoi figli. Alicia Arnaud non si presenta da sola al faro, con lei ci sono anche Tirsa e Ramon, il figlio più grande di Alicia, che ha 9 anni. I tre arrivano, Vittoriano si sta arrostendo un uccello che ha catturato, è molto contento perché è un evento abbastanza raro, è di buon umore, ma quando vede che Alicia non è sola si arrabbia moltissimo, fa per cacciare Tirsa. Alicia a quel punto lo distrae, gli dice che l'hanno solo accompagnata ma che se ne andranno subito. Lui si rimette seduto per proseguire nella cottura del suo pasto. A quel punto Tirsa tira fuori dal vestito un martello, lo affonda con tutte le sue forze sulla testa dell'uomo. È una scena terrificante. Lui è forte, si rialza, dice a Ramon di correre in casa a prendergli il fucile. Alicia ha con sé un coltello, le donne lo finiscono. La violenta dittatura di Clipperton è stata finalmente sconfitta. Però il destino dei dimenticati di Clipperton è qualcosa di veramente incredibile. Mentre le donne stanno decidendo come seppellire il corpo di Vittoriano Alvarez, il piccolo Ramon nota all'orizzonte una nave che si sta avvicinando. Si tratta della cannoniera americana Yorktown, in perlustrazione in quella zona di mare a caccia di basi segrete dei sommergibili tedeschi impegnati nel primo conflitto mondiale. Quando il giovane tenente americano Raymond Kerr scende sul l'isola e viene a conoscenza di tutta la storia, ne rimane sconvolto. fotografa tutto, i superstiti, il loro misero accampamento, il faro e perfino il cadavere di Victoriano Alvarez. All'arrivo a Salina Cruz, i miracolati di Clipperton vengono festeggiati per 3 giorni. Particolarmente toccante l'abbraccio tra Alicia e suo padre Felix, che per tutto quel tempo non aveva mai smesso di darsi da fare perché venissero attivate le ricerche di sua figlia e degli altri naufraghi, padre inascoltato in mezzo a una guerra che era esplosa e a tutto il mondo che aveva dimenticato la figlia e tutti gli altri. È talmente toccante l'incontro tra i due, tra padre e figlia, che il comandante della Yorktown scrive una bellissima lettera alla moglie descrivendo l'intensità di questo momento. La lettera è stata conservata per tutti questi anni. Ascoltate la bisnipote di questo capitano che legge un passaggio. La lettera scritta dal mio bisnonno alla mia bisnonna il giorno sabato 21 luglio 1917. Appena ancorata la nostra nave è arrivata la barca del porto, con a bordo il console britannico, il capitano del porto e il signor Rovira, il padre della signora Arnoux. Molti dei presenti si sono messi a piangere quando hanno visto la riunione tra il padre e la figlia. Era come se lei fosse ritornata a lui dalla tomba. Lui aveva scritto lettere su lettere al governo messicano chiedendo che fossero organizzate delle ricerche, ma aveva sempre ricevuto la stessa risposta, che tutti i componenti di quella spedizione erano morti. Il signor Rovira ha detto al console di non essere mai stato tanto dispiaciuto di non conoscere l'inglese come in quella occasione, perché avrebbe voluto esprimere nella nostra lingua tutta la sua gratitudine per avergli salvato la figlia. How grateful he felt for us restoring her to him. Naturalmente l'uccisione di Victoriano Alvarez, il negro, viene archiviata come legittima difesa. Purtroppo Alicia, probabilmente minata dalle sofferenze, dai patimenti subiti a Clipperton, muore di polmonite nel 23, a soli 33 anni. Poi l'atollo viene assegnato dall'arbitrato internazionale alla Francia, poi verrà abbandonato, oggi un possedimento marittimo pubblico, è tornato dominio di granchi e uccelli. Nel 1980 il grande Jacques Cousteau ha organizzato una spedizione scientifica su Clipperton, è stato accompagnato da Ramon Arnoux Junior, ormai ultrasettantenne, quel bambino vissuto fino a 9 anni sull'atollo, che ha continuato per tutta la vita a raccontare, segnato irrimediabilmente penso, a raccontare l'avventura di cui era stato partecipe perché i dimenticati di Clipperton potessero essere ricordati per sempre da tutti. Ci sono storie spesso sconosciute come questa di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala anche soltanto per salvarsi, per sopravvivere, perché a volte i colpi d'ala non si danno per scopi nobili, ma semplicemente per riuscire a vincere contro la cattiveria, l'arroganza, la delittuosità degli altri, insomma per mettersi in salvo. Se volete mandare dei commenti o segnalare delle vite sulle quali sperate che io punti il mio microfono, scrivete al falco@radio24.it oppure scrivete al nostro sito www.radio24.it oppure venite nei nostri social, Facebook, Twitter, Instagram, insomma se vi cercate mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.